Allora, Spiral, stata la ciocca di William Orbit con Sugar Babes. Tra l'altro sono arrivati un po' di sms, uno dei quali mi trova molto d'accordo. C'è Luis, infatti, che saluto. Ciao Luis, che scrive: sono convinto che bisogna vedere chi ha votato. Con il telefonino la maggior parte hanno votato ragazzini dai 12 ai 16 anni per Povia. Ecco il perché del ribaltamento. Io sono piuttosto d'accordo. In effetti gli sms secondo me sono utilizzati di più dalle persone molto giovani. Sono arrivati anche messaggi, infatti, da ragazzi molto giovani che hanno dato proprio Povia come vincitore, tra l'altro hanno gradito anche molto il festival, curiosamente. E poi c'è un altro messaggio, dice: la canzone più bella del festival è quella di Noah, però insomma Rosanna di Reggio Emilia, si sente poco, però è anche vero, Rosanna, che ha vinto il premio della critica, per cui insomma alla fine è stata premiata con un premio che io trovo anche particolarmente prestigioso. Sono ancora con Alessandra al telefono, che ci ha lasciato in suspense con una notizia su Anoxa. Ciao Alessandra ancora. Ciao Stefano, no, ti dicevo che Anoxa ha presentato un progetto sicuramente di difficile comprensione, non è la canzone che canti nella doccia la mattina, insomma, e per cui però sicuramente ha dimostrato di essere un artista che fa ricerca, cerca di migliorarsi, probabilmente vive anche un momento suo personale non facile, perché certo, esprimersi in quella maniera significa esprimere anche un proprio disagio, e questo è innegabile, insomma, si vede. Beh, un'altra che ha fatto una scelta così è Milva, per esempio, che ha fatto della canzone poi e dell'arte, del teatro, un'arte proprio precisa, insomma, si è buttata proprio su quella. Esatto. Brecht in particolare, in Germania è famosissima, insomma è una grandissima interprete di quel tipo di teatro lì. Ecco, quindi insomma, qualche curiosità invece sul festival, visto che la giuria dei blogger e comunque di internet ha ribaltato un po' le sorti, dando appunto come vincitrice, abbiamo sentito Anoxa, una curiosità tra le donne, certo. Il vincitore assoluto non te l'ho ancora detto. Ah, eccolo là, ecco cosa aspettavo, mi sfuggiva infatti un particolare. No, guarda, allora ti ho detto, Laura ha vinto fra i giovani, esatto, la Oxa, sì, ha vinto fra le donne, sì. Povia si conferma tra gli uomini, sì. I nomadi si confermano per i gruppi, mm-hmm, ma il vincitore generale, quello che ha preso più punti in assoluto, è Laura. Eccola qua, oh! Laura vincitrice del Festival di Sanremo su internet, invece, eccolo qua. Sei d'accordo su questa vittoria? Ma guarda, Laura trovo che sia un'artista interessante, ha questo modo di cantare molto particolare, tronca le parole. Ma cosa dici? Diciamo che o piace molto o non piace affatto, io la trovo interessante. Sì, magari stanca dopo un po', che senti tutte le cose, sì, così un po', ecco. È come quando Mina diventa troppo minosa, nel senso che sì, quando mi ricordava, infatti hai detto una cosa giusta, mi ricordava Mina con le mille bolle blu. Ecco, quando c'è troppo Birignao alla fine dà un po' fastidio, che Birignao è bello però fino a un certo punto. Invece io faccio complimenti a Povia per aver scritto un testo straordinario, intelligente, non banale e molto molto divertente, quindi davvero. Io sono d'accordo con te, perché secondo me quella di Povia meritava di vincere e ha vinto, e era una canzone che era, diciamo, diretta, facile, non aveva pretese intellettuali, però è una canzone intelligente. Esatto, e quindi questo va benissimo, è la cosa giusta per Sanremo, hai capito? Non troppo alta, ma neanche così banale, per cui insomma una meritata vittoria dal mio punto di vista. E io prima dicevi, parlavi di Noah e, sì, di Carlo Fava, la loro, sì, canzone era strepitosa, soprattutto il testo. Certo. Il testo era fantastico, cioè anche solo a leggerlo era veramente validissimo, veramente bello e commovente. Ma infatti la critica li ha premiati, insomma, alla fine sono portati a casa un bel premio, secondo me vale molto il premio della critica, esatto, per un musicista, esatto, soprattutto. Secondi sono arrivati Mario Venuti e gli Arancia Sonora, che a me piacciono molto. Ecco, beh, insomma, quindi complimenti anche a Mario, che anche per me è un grande, io poi canto tante sue canzoni perché è un appassionato del Brasile, per cui del Bossa Nova. Io Alessandra ti ringrazio molto, avremo modo di sentirci ancora, però prima di chiudere vorrei chiederti una cosa. Dimmi. Il tuo blog, che si occupa delle feste di Sanremo, adesso di cosa si occuperà? Sempre delle feste di Sanremo? Guarda, infatti aspettavo questa domanda, perché diciamo che ci occuperemo di Festival di Sanremo ancora per un po', con tutti i vari, sì, le varie, che ne so, conseguenze, no, del festival, quindi le vendite dei dischi che usciranno, certo, che sono già usciti, magari le tournée degli artisti, però il blog cambierà, diciamo, forma, aspetto e forse anche nome, perché Festival diventerà un sottoblog e il blog principale cambierà di nome e diventerà un blog sulla canzone italiana. Ecco, allora, oh, benissimo, allora devo dirti in bocca al lupo sicuramente per questa nuova, certo, questa nuova sfida. Grazie Alessandra, ci sentiamo poi chiaramente prossimamente, ormai sei una delle nostre blogger preferite. Un bacio. grazie Stefano, ciao. Buon lavoro, ciao, buona serata. Vi ricordo il sito che è festival.blogosfere.it. Andiamo avanti invece con i Negrita, gli Ineschinati a Perdersi, tra poco ancora argomenti tecnologici.